C. Ascolta ancora il testo dell'esercizio B e indica i verbi che senti. Giovedì mattina Mario andrà a prendere Luca all'aeroporto. Alle 10 incontrerà il signor Santi. Poi pagherà le tasse e di pomeriggio alle 15 consegnerà i disegni per il progetto Villa Hibiscus. Subito dopo, alle 15:30, parteciperà ad un congresso all'Hotel Marni. E cenerà lì, insieme a molti colleghi.